Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e buona settimana, qui è Gas che vi parla, siamo alle buonanotte di allineamenti su Ciao Radio Como. Spero che sia stato un buon lunedì, non so se è mai un buon lunedì, ma spero che sia stato un buon lunedì per il vostro. E spero che avete ascoltato il mio consiglio di ieri sera e siete passati alla mostra Frammenti o Sei Artisti in Cerca di Spazio, che è avvenuta, che è in onda al Chiostrino Artificio presso il Piazzolo Terragni. E ci sono lì i miei amici Dario Luzzani, Nuvola, ciao Nuvola, Gando, Martino e Max, mitico Max, e Silvio Curti. Vi aspettano, andate a trovarli, è un'ottima mostra. Io invece questa settimana volevo continuare il nostro racconto, il nostro viaggio con Giovanni Papini, questo scritto del 1914 che si intitola Chiudiamo le scuole. Lo so che fa piacere a tutti, ma farebbe piacere a tutti, nessuno vuole andare a scuola, ma questo è un libro un pochino diverso, vuole farci capire perché dobbiamo chiudere le scuole, ma inteso che cosa succede negli edifici pubblici dove si racchiudono tante persone e cosa succede un po' nel nostro cervelletto. Prima di continuare il nostro viaggio nel libro, nel piccolissimo racconto che vi consiglio di prendere, perché sono veramente 10 pagine, una roba veramente piccolissima, è un pezzo anche d'autore averlo in mano così leggero e carino, vi faccio ascoltare una canzone che la mia ragazza adora, quindi sarà contenta. Colgo l'occasione a questo punto per salutarla, ciao Mary, ed è John Butler, piace a tutte le ragazze perché è un gran gnocco, e la canzone si chiama Ocean. Thank you. Oh, ma quanto è bella questa canzone. Sono d'accordo con la Mary, mi è piaciuta davvero tanto e quindi la tengo un pochino di sottofondo così per iniziare il testo di Chiudiamo le scuole di Giovanni Papini, dove ieri abbiamo iniziato a leggere le prime pagine che ci invitavano a diffidare dai posti dove ci sono molti uomini che vengono rinchiusi o si rinchiudono e sono posti di grande superficie. Le prigioni, le chiese, gli ospedali, i parlamenti, le caserme, i manicomi, le scuole, i ministeri, i conventi. E proprio parlando di scuole, concludevamo ieri che le scuole non sono altro che reclusioni per minorenni, istituiti per soddisfare a bisogni pratici prettamente borghesi. Di quali bisogni stiamo parlando? Per i primi anni, quali sono questi bisogni prettamente borghesi che bisogna soddisfare con la scuola? Per i genitori, nei primi anni, sono il mezzo più decente per levarsi di casa i figlioli che danno noia. Più tardi, entra in ballo il pensiero dominante della posizione e della carriera. Per i maestri, c'è soprattutto la ragione di guadagnarsi il pane, carne e vestiti con una professione ritenuta nobile e che offre, in più, 3 mesi di vacanza all'anno e qualche piccola beneficiata di vanità. Aggiungete a questo la sadica voluttà di poter annoiare, intimorire, tormentare impunemente, in capo alla vita, qualche migliaio di bambini o di giovani. Lo Stato. Lo Stato mantiene le scuole perché i padri di famiglia lo vogliono e perché lui stesso, avendo bisogno tutti gli anni di qualche battaglione di impiegati, preferisce tirarseli su a suo modo e sceglierli nella fede di certificati. Certificati da lui concessi senza noie supplementari di vagliature più faticose. Aggiungete che sulle scuole ci mangiano ispettori, presidi, bidelli, preparatori, assistenti, editori, librai, cartolai e avrete la trama completa degli interessi tessuti attorno alle comunali eregie e pareggiate case di pena. Nessuno, fuorché a discorsi, pensa al miglioramento della lezione, allo sviluppo del pensiero e tantomeno a quello cui si dovrebbe pensare di più, al bene dei figlioli. Le scuole ci sono, fanno comodo, menano a qualche guadagno, ficchiamoci maschi e femmine e non ci pensiamo più. L'uomo, nelle 3 mezze dozzine di anni decisive della sua vita, ovvero tra i 4 e i 12 anni, dai 12 ai 18, dai 18 ai 24, ha bisogno per vivere della libertà. L'uomo, nelle 3 mezze dozzine d'anni decisive nella sua vita, ha bisogno per vivere di libertà. Libertà per rafforzare il suo corpo e conservarsi la salute, libertà all'aria aperta. Nelle scuole si rovina gli occhi, i polmoni, i nervi, quanti miopi, anemici e sovrastenici possono maledire giustamente le scuole e chi l'ha inventata? Libertà per svolgere la sua personalità nella vita aperta delle 10.000 possibilità invece che in quella artificiale e ristretta delle classi e dei collegi. Libertà per imparare veramente qualcosa, perché non si impara nulla di importante dalle lezioni, ma soltanto dai grandi libri, dal contatto personale con la realtà, nella quale ognuno si inserisce a suo modo e sceglie quel che è più adatto, invece di sottostare a quella manipolazione disseccatrice uniforme che è l'insegnamento. Nelle scuole, invece, abbiamo la reclusione quotidiana in stanze polverose piene di fiati, l'immobilità fisica più antinaturale, l'immobilità dello spirito obbligato a ripetere invece che a cercare. L'immobilità dello spirito obbligato a ripetere invece che a cercare. Lo sforzo disastroso per imparare con metodi imbecilli moltissime cose inutili. L'annegamento sistematico di ogni personalità. Originalità. Iniziativa. Nel mar nero degli uniformi e programmi. Fino a 6 anni l'uomo è prigioniero di genitori, di bambinaie, di istruttrici. Da 6 anni ai 24 è sottoposto ai genitori e ai professori. Dai 24 anni è schiavo dell'ufficio, del capo posizione, del pubblico e della moglie. Tra i 40 e i 50 anni viene meccanizzato e ossificato dalle abitudini, terribili più di ogni padrone. E servo, schiavo, prigioniero, forzato e burattino rimane fino alla morte. E per questo vi chiedo, lasciateci almeno la fanciullezza e la gioventù per godere un po' di igienica anarchia. È stata una puntata forte, ringraziamo John Butler per il suo sottofondo che abbiamo cambiato per questa puntata speciale, grazie a Giovanni Papini che, anche se non è tra noi e di sicuro non ci sta ascoltando, ci ha regalato un pezzo che rimane attuale, come vi ho detto inizio puntata, e che ci fa riflettere su ogni momento della nostra vita con parole anche abbastanza brusche e aggressive. Domani lo chiudiamo e per questa serata è tutto. Vi auguro una buona notte, le buone notti di allineamenti qui, ragazze, e a presto. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buona notte di allineamenti.